stasera perché lo guardo. Di solito lo osservo pensando a qualcos'altro, ma adesso sono salvo, convinto di capire perché vivere è magnifico, ma c'è chi vuol morire. Dietro a specchi di boutique, skate e trick, storie strane. Ognuno ha i propri sogni e i propri tagli da leccare. Sopra un te non puoi sentire i tuoi sogni restando zitto, ma guardalo da fuori e leggi il sogno di chi ha scritto. Se vuoi sentire il male, guarda gli occhi di una madre. Figlio tossico, bastardo, che è un disabile immortale. Mentre chi lava le scale ha ancora il sogno di svoltare. Vede il bello che ha 20 anni, spaccia coca e va a puttare. Che il mondo è fatto a scale, forse anche nell'aldilà. Sono scale sopra scale, scale in relatività. Dove stare non si sa, con la testa se mi va. Mi addormento sotto il cielo che copre la mia città. Sotto un cielo spento mi addormento sempre. Con le cuffie nelle orecchie la mia testa sente. Questa gente mente perché è più divertente stare sotto un cielo spento e far finta che non sia niente. È un cielo nero che ci ricopre la città. Alza gli occhi per guardarlo e ti connetti all'aldilà. Ma qua io non guardo, non rido, non mi diverto. Se questo cielo spento mi ha fatto nero dentro. Fight MC, scrivo testi per scappare dall'inferno più terrestre, un paradiso artificiale. Resta zitto, chiudi gli occhi con le mani sulle palpebre. Con cuore che ti ascolta sentirai la terra piangere. Piangere il lamento delle anime che ho visto. L'anima non vedo e l'animo lo percepisco. Poi ti garantisco, con ognuna la sua croce. Gridare quando gli altri non ascoltano la voce. Restare lì incapace di una vita puttane. Figgersi con denti mentre invece si sta male. Avere il pane e non i denti per mangiarlo. E puoi provare amore e dirlo sempre nelle orecchie sussurrando, guardando dentro dove i soldi sono carta. Io scrivo con la penna e questo mondo è carta bianca. E stanotte mi addormento scrivendo meno sereno mentre vedo un cielo nero che ricopre il mio stato mentale vero. Sotto un cielo spento mi addormento sempre. Con le cuffie nelle orecchie la mia testa sente. Questa gente mente perché è più divertente stare sotto un cielo spento e far finta che non sia niente. È un cielo nero che ci ricopre la città. Alza gli occhi per guardarlo e ti connetti all'aldilà. Ma qua io non guardo, non rido e non mi diverto. Se questo cielo spento mi ha fatto nero dentro. E siamo fuori di qui. Ma veramente siamo dentro. Yes. E senti, 45 gradi all'ombra. Per l'estate 2010 non ce ne frega un cazzo. Vogliamo la notte, l'oscurità del cielo.